Si che per ti proghe, dinghe il suo loghe, si che per supplighe, si che per supplighe, di compagni fra i sinta, soli Crider, soli Biden, soli saga, ya ya. Biden, so di saga, yeah, yeah, yeah.